sieben Wochen. Und wie haben Sie diese Mannschaft verändert? Das ist unglaublich. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Possibilità per il destro piazzato, è l'1-0, Fabian Johnson, 1-0 Mönchengladbach, Bacchiellini. Opa, palla interessante verso Lichtsteiner. È stato importante tornare subito, nonostante solo due allenamenti con la squadra, però credo il momento è troppo delicato a tirarsi fuori, quindi per me è stato importante subito tornare e dare una mano alla squadra. La Juventus non riesce proprio a svoltare, al di là del meraviglioso gol di cuore di Lichtsteiner, no, ce l'hanno detto tutti, sta diventando quasi un tormentone o una banalità, se volete. La Juventus non riesce proprio a svoltare, come nel derby la butta sulla sofferenza totale anche in Germania. Borussia passa indenne anche il famoso minuto 47-55 secondi, ma quello è riservato esclusivamente al Torino, 1-1, che ovviamente non pregiudica nulla, anzi la Juventus è indirizzata verso il passaggio del turno, ma si sperava di chiudere la pratica già ieri sera. Giorgio De Luca, nostro autore, Paolo Corleoni in regia, Giovanni Melchiorre in redazione. Mi è venuto a trovare con grande piacere il pilota della Domenica Sportiva di Radio 24, Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao, sono venuto perché sento suonare troppi violini, quindi ho detto vado e cerchiamo un attimo di rimettere le cose sul giusto binario. Ah, ok. Pierluigi Pardo, come va? Ho molto bene, dove sei? Mercato. Sono qui con Aldo Serena davanti a me, fra l'altro, quindi poi dopo lo sentiamo. Poi lo coinvolgiamo. Dentro i Dusseldorf ho visto la più grande bancarella di patate della storia dell'umanità. Sono stati 80 tipi diversi. Patate in che senso? No, quale tipo di patata? Ecco, dai, la signor Genta. Descrivici minuziosamente le patate. No, guarda, la roba, c'era la rossa ungherese, poi c'era la, che c'era, perché c'era Aldo, la dolce, poi c'era la blu. La polacca, la blu, la polacca, la dolce. Abbiamo capito, Pierluigi. Se vuoi, ci sentiamo più tardi. Se sei impegnato, no, ma veramente il mercato deve fare veramente. Guarda. No, ma tra l'altro, Pardo, io so benissimo che te la cavi in maniera egregia con il tedesco. No, e abbiamo abbiamo le prove audio. Eine sehr gute Leistung von deiner Mannschaft. Was es gefällt für dieses Spiel zu gewinnen? Ja, ein Tor mehr. ja, ich glaube, wir haben es von Beginn an gezeigt, dass wir das Spiel gerne gewinnen wollen, dass wir haben nach vorne gespielt, haben phasenweise hochgepresst. Che ti sta dicendo? Cosa gli hai chiesto? Ma che ne so, ma dai, ma Paganino, ripeto, no, è che io volevo evitare questa scena, però me l'hanno detto, poi facciamo la registrata, che sono delle tragedie, ormai sono anni che non lo pratico più, e quindi... Non lo pratichi però, più insomma, il tedesco? Sì. Non lo frequenti più? Diciamo, non lo frequento più. No, invece volevo dirti che il questione di cuore sulla telecronaca c'è una citazione, nel senso che poteva distintivo, però poteva anche sembrare eccessivo, perché cuore è un problema al cuore. Poi ho visto che hanno aperto tutti i giornali, tutti rinfrancato, del resto è fin troppo facile, me ne rendo conto, però è veramente impressionante come il calcio delle volte riesca a regalare storie incredibili, perché Lichtsteiner era già una sorpresa se fosse stato convocato. Era una sorpresa l'eventualità che potesse giocare qualche minuto. È stata una sorpresa ieri, non ci credeva nessuno quando alle 7 è arrivata la notizia che avrebbe giocato titolare. Non è esattamente una prima punta, quindi non è neanche uno che segna molto. Beh, ma l'idea che abbia segnato Lichtsteiner, ma poi ha fatto dopo la grande paura di al di là del fatto che è stato un gol da cinema, è stato un gol meraviglioso. Sì, è stato un gol meraviglioso. Anche poi adesso ne parliamo, una prestazione di nettissima ripresa di Pogba. Sì. Che Pogba mi sembra che abbia dato dei segnali molto incoraggianti. Ma è merito del motivatore di ex di Bonucci. Abbiamo scoperto il trucco, caro Pogba. Non ci inganni. Fermiamoci per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde, a tra poco. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Tutti convocati. Bisogna crescere, perché non si può stare 3 minuti fuori con un giocatore che si deve cambiare i calzini. Il regolamento è quello, la muta del gioco deve essere uniforme, e quindi è inutile mettersi calzino giallo, calzino rosso, non so come se ne mettono, perché alla fine non bisogna andare a fare le sfilate di moda, bisogna giocare a calcio, e su questo io sono molto arrabbiato, però purtroppo anche lì sono ragazzi, e quindi bisogna farglielo capire, sperando che lo capiscano velocemente. Giovanni, sì, questo cosa... se prende il gol, no, adesso ma... arrabbiato, se prendeva se, il gol. Se prendeva il gol, Morata passava davvero un brutto quarto d'ora. Tanti hanno ricordato la storia di Seedorf, delle sue ciabatte nel derby, perso 4-0. Tra l'altro poi Seedorf si arrabbiò moltissimo, lui spiegò che non era vero, che erano scarpe da tennis e che è la consuetudine. Ma io se posso dire, in tutto questo clima bellissimo, bonista, quindi il gol di cuore di Lichtsteiner, che è una storia bellissima, Pogba che ieri ha fatto finalmente una partita da numero 10, però ragazzi, ieri la Juventus ha fatto una partita da un certo punto di vista impresentabile, cioè i vice campioni d'Europa che per mezz'ora non superano più la metà campo e man mano tolgono tutte le punte, non contro il Bayern Monaco, non al Camp Nou, non al Bernabeu, ma contro il Borussia Mönchengladbach, scusate, ma secondo me non sono un bel segnale. No, non lo sono, la Juventus l'ha messa sulla sofferenza, come nel derby, non ha giocato una partita molto distante da quella. No, Pierluigi? Non sono Pierluigi, scusatemi, ma mi ha dato il telefono, Aldo. Sono Aldo, è andato a prendere due birre. È andato a prendere due patate, sì, ho capito. No, due birre. Eccolo qua, sta tornando qui con le due birre, e quindi ho fatto io le sue veci, in malo modo, ve lo ripasso. No, Aldo, no, prego, tagli. Cosa ma ce lo ripassi? Sento tutti i giorni, capito? Parlo, lo sentiamo tutti i giorni, a tutte le ore. Ho resistito, perché qua è pieno di piccole tentazioni, abbiamo fatto una mega colazione, però qua c'è per esempio la gula, poi c'è questo, cioè, meraviglioso views, quello col Sens, no? Con la come dite voi italiani, con Zenabe. E poi ci sono tutta una serie di Mario patate, chiede foto via Twitter, Pardo, quindi sbrigati. Del banchetto delle patate, esatto, il banchetto delle patate, che adesso è lontano, però vediamo. Vabbè, sbrigati, perché Mario esige foto su Twitter. No, diceva Giovanni che non grandissimi segnali dalla Juve ieri sera, e questo è vero. È vero che è rimasta in 10 per l'espulsione del fantasma di Hernanes, non credo neanche sia lui, ma suo cugino, suo fratello, suo zio forse. Ieri ha girovagato per il campo, rischiando l'arresto per vagabondaggio, e poi si è fatto cacciare fuori per chiudere la storia. Non una Juventus che ha impressionato, Barzagli in campo alla fine al posto di Morata, tutti rinserrati nel fortino, e insomma è andata bene così. È andata bene così, sicuramente c'è stato un calo fisico che per esempio non c'era stato contro il Sassuolo. Adesso, con tutte le proporzioni che si possono fare fra Sassuolo e Mönchengladbach, anche se alla fine la posizione in classifica in Italia del Sassuolo non è molto diversa rispetto a quella del Borussia, però sicuramente in quel secondo tempo, 10 contro 11, la Juve aveva mostrato un atteggiamento diverso rispetto a quello che ha mostrato ieri. Ieri, dopo l'espulsione, alla prima dell'espulsione, dava la sensazione di poterla vincere facilmente. La partita sembrava proprio messa benissimo. Dopo un primo tempo di tanta sofferenza, 35 minuti di tantissima sofferenza. No, non sono d'accordissimo sui 35 minuti, sono un primo tempo di grandi folate. Due o tre minuti, so che è un po' ridicolo dirlo, però i primi 2-3 minuti veramente molto positivi per la Juve, poi 20 minuti di dominio Gladbach, poi però secondo me dalla mezz'ora in poi, dal 26esimo, 27esimo in poi, la Juve sarà messa a fare la partita, aveva già avuto un paio di occasioni, il colpo di testa di Evra, quel di Bala al centro della rigore. Sono 20 minuti però, cioè sono 20 minuti. Adesso io non voglio fare il pessimista a tutti i costi, però, la grande autoanalisi dopo Sassuolo ha partorito due super prestazioni di Buffon, perché a portieri invertiti, noi staremmo parlando di una cosa diversa, attraverso invertite pure. Sono d'accordo che sia la migliore Juve e ne parlavamo qualche giorno fa. Io penso che la vittoria del derby sia stata una vittoria di grande cuore, anche se un po' di paura del Torino negli ultimi minuti che è arretrato, ma sicuramente la Juve ha ballato nel secondo tempo, certo, e il Torino stava giocando meglio nel secondo tempo della Juve, quindi non c'è discussione su questo. No, però ti dico, il primo tempo secondo me è stato un primo tempo veramente a due facce. Poi all'inizio della ripresa 11 contro 11 la Juve stava dando l'impressione di poter chiudere, magari era semplicemente un po' di trauma psicologico per il Gladbach, perché ci sta pure che dopo essere stato in vantaggio 1-0 prendi il pareggio all'ultimo minuto possa avere dei problemi, quindi non so dirti se fu vera gloria, come dice il poeta, però sicuramente l'inizio del secondo tempo era molto buono. Poi alla fine è stata una sofferenza inaudita e devo dire un po' forse era anche il bisogno di portare a casa un risultato che è ottimo, che probabilmente ha anche inciso sulle scelte, appunto la famosa sostituzione con l'ingresso di Barzagli e il sacrificio dell'attaccante, ma insomma alla fine mi penso sia buono il risultato, che dovrebbe adesso dare la Juve vicina da febbraio. Tanto guarda, la Juve se non è lo scudetto è possibile, ma chiaramente non è l'obiettivo in questo momento. Al momento è un obiettivo lontanissimo. Il terzo posto è complicato, molto complicato, ma non è impossibile, secondo me, alla portata, dai. Esatto. Alla portata. E poi la Champions passa il turno, poi da febbraio poi è un'altra storia. Il Milan ha vinto la Champions ad Atene nel 2007 dopo aver fatto malissimo nella prima parte di stagione, ma il calcio è pieno di storie come questa, è completamente un altro sport da febbraio. No, chiaro, è un altro film, sono altre squadre, altre condizioni, magari anche altri interpreti passando attraverso il mercato dove ti trovi tu ora. Cosa ne pensa Serena? Ecco, appunto, questo pensavo, il professor Serena, ve lo passo. Io sentiamo. Bevo un goccino di birra analcolica. Buongiorno a tutti. Io sono filosoficamente contrario alla birra analcolica, secondo me dovrebbe essere vietata per legge. È Pardo che fa il buffone, no? Non ti preoccupare, Aldo. Ascolta, ieri stavamo dicendo una Juve di tanta sofferenza, quasi di sola sofferenza, anche se parla, ha visto 20 buoni minuti, però ha ragione Giovanni Capuano, migliore in campo, nettamente Buffon per la seconda volta consecutiva. Io ho avuto la sensazione, quando ho letto la formazione, diversa da quella che ci aspettavamo all'inizio, che Allegri avesse disegnato la Juventus che aveva in mente, un po' come ha fatto l'anno scorso contro l'Olympiacos nella partita decisiva per il passaggio del turno, cioè Hernanes trequartista, la difesa a 4, Morata, Dybala scelti come coppia offensiva, anche perché Mandzukic era fuori per problemi a una spalla. Ho avuto la sensazione che in una partita importante di Champions Allegri avesse messo la formazione che aveva in mente. È il modulo preferito di Allegri, quello sul quale ha puntato anche in passato molte volte, il 4-3-1-2. Io credo che a livello europeo, contro squadre che hanno esterni alti, molto veloci, e a Manchester l'atteggiamento della Juventus è stato diverso, con il 4-3-3, quindi giocare con il 4-3-1-2 diventa un rischio. Diventa un rischio perché i tre centrocampisti devono coprire molto spazio e spesso non ce la fanno se i due esterni bassi della squadra avversaria spingono e sovrappongono con costanza. Ieri sera sono stati dei problemi sotto questo profilo e facendo il conto dei vantaggi e degli svantaggi, la posizione di Hernani, da trequartista, è stata nel primo tempo abbastanza poco concreta. Solo una volta si è fatto trovare fra le linee e ci ha cercato il tiro da lunga distanza. Per cui io penso che proprio che a livello europeo, con squadre che giocano ampliando il campo e cercando di giocarlo in ampiezza, deve secondo me giocare in maniera diversa. Col 4-3-1-2 è molto difficile. Sì. Vuoi chiedere qualcosa, Giovanni? Ma io la cosa che già col Toro aveva scelto la sua Juve, poi in realtà l'infortunio di Khedira ha ribaltato tutto con l'ingresso di Cuadrado. Esatto. Io non era andata bene nei primi minuti. Esatto. Io credo che noi giriamo sempre intorno al problema. Cioè Allegri aveva in mente quella Juve lì e evidentemente ce l'aveva in mente non con Hernanes ma con un profilo diverso come trequartista. Noi, io credo, ci trascineremo, Aldo, fino alla fine della stagione questa cosa qui, cioè di chi doveva essere il numero 10 della Juve, posto che poi ieri Pogba alcune cose da numero 10 le ha fatte, a partire dall'assist per Lichtsteiner, che mi ha ricordato per dove ha messo il pallone quello che ha fatto tantissime volte Pirlo, cioè riuscire a mettere quel pallone dietro la linea dei difensori. E se tu ti ricordi, negli anni con Pirlo Lichtsteiner spesso si trovava poi lì o per concludere o per metterla in mezzo, però manca, esatto, il numero 10. Se la Juve deve fare quel gioco lì, vuol dire che il mercato è stato sbagliato. Beh, Pogba può fare qualità correndo anche tanto, ma non può far tutto, sicuramente è in fase di crescita e può fare molto meglio di quello che ha fatto anche in questo periodo, però ecco, non può fare il numero 10 facendo qualità e poi correndo all'impattata su e giù per la fascia spendendo tante energie. Io penso che, non so se a gennaio la società farà un ulteriore regalo ad Allegri, però è difficile che ci siano delle opportunità di alto profilo in quel periodo. Cioè, chi dice Lavezzi che potrebbe andare via 6 mesi prima della fine del contratto da Parigi, però Lavezzi non è quel giocatore lì, è un altro. La Juve ha già speso 80 milioni in attacco. Potrebbe essere Vázquez, potrebbe essere Pastore, potrebbe essere uno di questi, insomma. Sì, l'importante è che Allegri si esprima con la società e che dia l'assenso e che lo ascolti, no? Che la società gli dia retta. Che magari Allegri si esprime anche, però poi bisogna vedere se gli entra da una parte e gli esce dall'altra. Piuttosto, Aldo, hai l'impressione, per chiudere, che questa diatriba pubblica, cosa che io sinceramente non ho mai visto, una pubblico lavaggio di panni sporchi tra vecchia guardia, ragazzini, eccetera eccetera, è successo 3 volte, quindi una passi con Buffon, 2 magari con Evra, ma alla terza con Bonucci dici vabbè, questi qui stanno regolando i conti pubblicamente, no? Magari può essere molto pericoloso. Ed è molto pericoloso, no? A mio avviso, perché si creano delle fratture che a volte possono risultare anche insanabili. Secondo me è il capogruppo che deve parlare eventualmente, quello che si deve prendere le responsabilità, ed è l'allenatore. Poi ci sono dei giocatori che hanno una rappresentanza maggiore rispetto agli altri, che hanno anche una personalità più forte, ma devono sempre parlare misurando le parole e non andando su uno spazio che non è di loro competenza. Pensi che Allegri sia un po' prigioniero della vecchia guardia? Il gruppo storico che ha vinto tanto e che sicuramente ha un potere forte anche di relazione con la società. Io credo che Allegri debba tenere alto il suo profilo, cercando di essere l'allenatore dell'evento su tutti i punti di vista, anche sotto il profilo mediatico, e quindi anche sotto il profilo delle dichiarazioni. Se ha qualcosa da dire è di forte, lo deve dire. Ieri sì. Tra le righe, secondo me, all'inizio della sua conferenza stampa, qualcosa si è intuito. Non lo ha espresso benissimo, in maniera chiara, però un fastidio si è capito. Sì, ha detto è ora di finirla qui, adesso piantiamola. Grazie Aldo, ci sentiamo. Salute a tutti voi. Ciao, buona birra. Buona birra. Anche perché se poi fai la voce grossa, vai in campo e fai gli errori che ha fatto ieri Chiellini. Su Chiellini bisognerebbe aprire, anzi poi lo facciamo. Secondo me è su tutta la difesa della Juventus. È dall'inizio della stagione che regala gol, da errori individuali, da errori di piazzamento. Credo ci sia anche questo tra i problemi della Juventus. Però su Chiellini mi domando se non sia il caso di concedergli un po' di riposo. Diciamo un po' di riposo. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Alessandro e Giorgio, state lì, in linea, 800-24-0024, numero verde. Continuare a parlare di senatori vecchi, giovani, credo che non abbia senso, anche perché siamo tutti insieme e tutti insieme dobbiamo passare questo momento e dare continuità ai risultati. Se non lo facciamo, la responsabilità è di tutti, la responsabilità è il primo sono io, perché sono allenatore. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. E torniamo con Pierluigi Pardo collegato da Düsseldorf, Giovanni Capuano qui con me, Alessandro e Giorgio, due ascoltatori in linea che andiamo subito a sentire. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Volevo subito fare una battutina a Pierluigi Pardo, che è un mito. Sì. È un po' che non lo vedevo per televisione, l'ho rivisto ieri sera in collegamento dalla Germania. Mi è sembrato un po' ingrassottarino, è un po' abbrizzolato. Oh, volevo fare una risatina. Altre tragedie. No, è briciolato. Pierluigi. Sì, quella briciolata era Aldo Serena vicino a me, però era più briciolata. Sono di Formigine, il paese di Nosotti. Oh, Paese del Noso. Dov'è il Noso adesso? Cosa sta facendo? Non lo so perché io sono al lavoro, non lo so dove sia. Comunque, poi hai visto giocare Nosotti? Nosotti, portiere della Formiginese? Tanti anni fa, l'hai visto giocare? Com'era? Era un gran portiere, un gran portiere. Tutti confermano, Pardo. Ormai non ci sono più dubbi. Sì, Nosotti era ufficialmente un gran portiere. Chiamiamo Nosotti. Un talento perso per il calcio italiano, purtroppo. Mi ricordo che lo chiamavamo Gommolo. Perché era di gomma proprio. Gommolo secondo me è perfetto. Cioè, se mi dice Gommolo, a me viene in mente Nosotti. La carriera di Nosotti è. Cioè, no, era un mito, Se chiamiamo Gommolo subito, De Luca. Adesso lo cerchiamo, adesso ci proviamo. Siamo andati a prendere il numero. Gommolo, vediamo come reagisce. 80, 90, non va. No, non si può. Voglio sentire come reagisce proprio. Beh, voleva dire qualcosa sulla Juventus, sull'Inter, sulla Roma, sul Napoli, sul rugby, sul pattinaggio, su ghiaccio? Sono tifoso della Juventus io. Volevo solo dire che io ho una gran paura di perdere Rugani, perché da quello che leggo sui giornali così Allegri non lo vede proprio, e per me è un futuro difensore, non voglio dire un futuro Cirea, ma secondo me siamo su quella strada. Rugani chi? Non è aria per giovani in questo momento, per ragazzini. Dimmi, Pierluigi. Rugani due minuti col Siviglia all'inizio della stagione è un ottimo. Sì, però se lui si rompe i cosiddetti, dice qua non mi fate giocare, allora vendetemi, a me mi dispiacerebbe molto. Ma credo abbia già iniziato a rompersi da quello. Penso sinceramente che a gennaio sia, se non cambia le cose, un prestito quasi scritto, perché è evidente che un giocatore così, di questa prospettiva, deve giocare. A star seduto non cresce mai. Sì, ma detto questo, io non penso che Allegri sia magnetista. Non è possibile per un giocatore così. Comunque, andiamo a vedere. Vabbè, l'importante è che Gommolo stia bene poi alla fine. Gommolo non è staccato, non risponde Gommolo. Che vuoi che ti dica? Non risponde. Sì, è vero, mi chiamavano Gommolo quando ero nella... A voi. Aldo, che pensi di Rugani? Due minuti soltanto in stagione contro il Siviglia. Andrà in prestito? Non so se andrà in prestito, certo che è poco per un ragazzo che ha prospettive azzurre e quindi deve anche... E poi di qualità... Almeno probabilmente con Allegri, se qualche problemino, Allegri non ha una grandissima fiducia, perché altrimenti l'avrebbe fatto giocare qualche altra volta. Tanto potrebbe servire alla Lazio. Sto leggendo in questo momento che stop di almeno 6 mesi per De Vrij, che è stato operato al ginocchio sinistro, quindi stop di almeno 6 mesi vuol dire stagione praticamente andata. La Lazio sta cercando Vlar, che è vincolato, cercando, c'è anche l'ipotesi Douglas, insomma ci sono varie ipotesi. È chiaro che De Vrij è un giocatore importante, l'anno scorso la sua presenza e le sue buone prestazioni hanno coinciso con le 8 vittorie consecutive, e poi invece nel momento un giocatore chiave, per la Lazio. Giorgio, provincia di Trento. Come Gommolo per il Formento. Giorgio, buongiorno a tutti. Buongiorno, dica. Salve, io ho una certezza di chi vince il campionato. Ne abbiamo bisogno, guardi, giuro che ne abbiamo bisogno di certezze, perché non ne abbiamo neanche mezza. Dica. È la Roma, e vi spiego il perché. Perché quest'anno c'è il Giubileo, vi ricordate nel 2000? Sì. Chi ha vinto? La Roma. Ecco, o la Lazio, adesso non mi ricordo. Nel 2000 ha vinto la Lazio, nel 2001 ha vinto la Roma. Nel 2001 ha vinto la Roma, 2000 la Lazio. Nel 2000 c'era il Giubileo, aveva vinto una squadra romana. Quindi... Sì, anche l'anno dopo. Si ripete nulla, un'altra cosa. Se per questo la Samp ha vinto nell'anno delle Colombiadi, se non ricordo male. Per cui, se vogliamo, possiamo andare avanti all'infinito. Però l'Inter e Milan non hanno vinto nell'anno dell'Expo. Sì, però anche questo è un tema. L'anno dell'Expo, il campionato dell'Expo può essere. L'anno delle Olimpiadi di Roma, scusate, il 60 gli ha vinto lo scudetto nella Roma, nella Lazio. Però non smontatelo così. Adesso ci sta spiegando perché vince la Roma. Scusate. Sapete cosa fanno i tifosi della Lazio prima del derby? Cosa fanno? Aprono la scatola del caffè per far perdere la Roma. Oddio mio. È un po' fuori. Oddio mio, l'ha detta. La Roma, l'apostrofa Roma. Ah, ma io ci arrivavo dopo domani. Stasera alle 6:30? Io alle 6:30 in faccia il signor Cruz. Signor Cruciani, la facciamo chiamare bella, bella, questa della Roma è bella. Guarda, sai cosa? Giriamo tutte queste considerazioni, sai a chi, Pardo? A Giuseppe Di Piazza. Ah, il professore. Il professor Di Piazza, buongiorno. Grande fotografo. No, vi sto ascoltando. Hai capito? Abbiamo la certezza, Giuseppe. No, vi sto ascoltando con molta prudenza. Molta prudenza, se mi raccomando. Con le mani basse. Sinceramente mi disgustano. Cosa? Quindi no, i discorsi sullo scudetto. No, non ti disgustano? Mi disgustano, sì, non si fanno. Non si fanno. No, non si fanno. No, non si fanno assolutamente. Però sai, è l'anno del giubileo, diceva l'ascoltatore. È l'anno del giubileo, è il 2000-2001. Ha vinto la Lazio l'anno del giubileo. E l'anno dopo ha vinto la Roma, quindi bisogna aspettare l'anno prossimo. Post giubileo. Intanto poi, come dice il nostro allenatore, una alla volta. Abbiamo un Bayer Leverkusen questa sera impegnativo. Sì, ci vuole una bella memoria per ricordare l'ultima vittoria della Roma, che è stata la prima, anche la e l'unica di 14 mesi fa. 14 mesi fa. Sarebbe ora di ricominciare. Sarebbe ora, sì, questa sera io credo, guarda, mi aspetto una gran prestazione leggendaria da parte di Pjanic, una prestazione senza l'uso delle mani, quindi una prestazione con i piedi, perché quello che ha combinato l'altro giorno era assurdo, da un bravo ragazzo come lui alzare le mani in questo modo, cioè no, intollerabile. Ma poi il giocatore probabilmente più in forma della Roma, c'è chi dice Pardo, il nuovo Rivera, magari può sembrare blasfemo il paragone, ma a me un po' lo ricorda, posso dirti. Beh, la grande continuità che non c'era mai stata l'anno scorso, no? questi anni romani, Pjanic ci ha sempre fatto delle pepe, ha sempre trovato delle soluzioni, delle punizioni, dei tiri da fuori, mi ricordo un gol pazzesco contro il Milan, però quello che c'è quest'anno, che non c'era nel passato, è una continuità in questi due mesi, davvero leader, da giocatore, da crack, come dicono gli spagnoli, diciamo ormai sta crescendo, quindi, il ragazzo sta crescendo. Il ragazzo si farà. Anche se ha le spalle strette, vabbè, dai, ho capito. Quindi... le spalle strette lui, non è che uno dopo la Roma, scusate, dopo la Roma vale tutto. Posso però fare una domanda, scusate, aspettate. Io non ho capito, vai, perché è un dubbio che mi porto dietro da un paio di giorni, ma se ci fosse da non vincere una delle due partite, e non vincere questa sera ad esempio significa essere quasi certamente eliminati dalla seconda fase della Champions League, i tifosi della Roma quale scelgono fra questa e il derby? Ma io ho visto il business plan della Roma. Ma che business plan? I tifosi della Roma cosa scelgono? La Roma prevede la sconfitta questa sera. E questo è proprio il business plan, cioè un ragionamento economico. Prevede di rinunciare a una ventina di milioni. No, non c'è cuore, non c'è niente. Pessimismo cosmico, professor Di Piazza. È solo economia, pura economia. Perché? Perché loro hanno fatto lo scenario peggiore, il business plan viene costruito sullo scenario peggiore, in cui c'è la squadra che esce al primo turno, ai gironi. Nel momento in cui noi usciamo ai gironi rispettiamo il business plan, come si dice siamo a budget, mentre nel momento in cui perdiamo con la Lazio, ecco, non so più il budget dove finisce. No, in realtà per me è più importante stasera. È più importante stasera secondo te? Se la Roma è una grande squadra, sì. Se la Roma è una grande squadra, sì. Pari dignità. Pari dignità, pari importanza, pari peso. No, bisogna capire di che stiamo parlando. Stiamo parlando razionalmente, cartesianamente del campionato. La partita con Lazio vale molto meno di quella di stasera, perché la partita di stasera ti può dare una prospettiva economica e non solo di un certo tipo. E perché il campionato, che secondo me è l'obiettivo più importante per la Roma, nel senso che è più probabile che la Roma possa far bene il campionato e vincerlo piuttosto che vincere la Champions, che è una roba assurda anche solo pensarla, no? Poi mai dire mai nella vita, però è ovvio che non è quello l'obiettivo della stagione. Quindi che il campionato sia più importante della Champions è vero, però è anche vero che è un campionato talmente livellato, talmente equilibrato, che la partita di stasera pesa un 38esimo sull'economia del campionato della Roma, la partita di domenica pesa un 38esimo, la partita di stasera pesa molto di più. Detto questo, poi bisogna vedere di che stiamo parlando, perché si parla di pareggiare il derby un conto, se si parla di perdere il derby con il corollario di polemiche, eccetera, è quella un'altra cosa. Esattamente. Il derby non è una partita come tutte. Poi arrivi dalla sconfitta di Milano, da un punto di vista matematico, il match della settimana è questo, cioè questa è la partita che ti può cambiare la stagione. Sì, ma anche ovviamente. Ho capito, però secondo me anche quell'altra ti può cambiare la stagione perdendola. Su questo ho pochi dubbi, perché arrivi dalla sconfitta di Milano, c'è una partita come il derby che sappiamo cosa significa. Perdi quella, secondo me rischi di vacillare pesantemente in campionato. Fermiamoci un secondo, giusto un attimo per il traffico, ma torniamo. Spot per noi, torniamo subito. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Tutti convocati. Io volevo tornare con un'ultima domanda, un'ultima considerazione per Giuseppe Di Piazza. Verso il derby, dicevamo, abbiamo provato a pesare, a misurare l'importanza della partita di stasera e del derby, Giuseppe. Ma andiamo verso il derby per capire come reagisce la Roma ferita, e metto dentro tutte e due, Roma ferita, città commissariata, che deve rispondere alla Milano capitale morale e città dell'Expo. Come la vedi? Ma una pioggia di petali sull'Olimpico lanciati da un elicottero che passa. Cioè, noi potremmo anche immaginare un scenario così, però io credo che la partita chiave realmente da un punto di vista psicologico sia il derby. Il derby con una Lazio in questo momento anche essa ferita, perché onestamente perdere in quel modo in casa con una squadra che poi non è una bella squadra, dei bei giocatori, insomma, anche loro hanno bisogno di reagire. Prendere una batosta l'8 novembre non è il massimo, perché veramente potrebbe segnare psicologicamente molti dei calciatori. In casa è vero che ci saranno le curve chiuse, quindi anche in una sorta di silenzio pneumatico potrebbe avvenire questa cosa, quindi meno dannoso, però insomma le ricadute sarebbero forti. Questa sera è vero, bisogna vincere, ha detto l'allenatore, bisogna vincere, Pjanic deve riscattarsi, deve mostrare di essere un vero campione. Ho visto che ci sono indiscrezioni con un Florenzi di nuovo terzino destro e non, come si diceva, Torosidis, quindi una squadra un poco più aggressiva poi per certi versi, con Iago Falque a bilanciare. Quindi questo era, visto le ultime cose che circolano in rete. Basta, io ti dico, il derby è sempre un totem, quindi sai, intorno ai totem si costruiscono le tribù. Sì. Quella è. No, ma io rimango abbastanza convinto del fatto che, insomma, se la Roma dovesse uscire sconfitta dal derby, forse il progetto di cui tu non vuoi sentire parlare, il progetto scudetto, no, rischierebbe di subire un durissimo colpo. Ma io, no, ma io guarda, penso c'è così. C'è anche Aldito, mi sono confrontato qui con Aldito Serena, è un punto di vista rispettabilissimo ed emotivo. Ma la partita è stasera, l'obiettivo è passare il turno, ma anche perché è un campionato talmente equilibrato questo, talmente equilibrato, che la cosa peggiore che può succedere è che tu stia a meno 4 dopo la prossima giornata. È ovvio che la sconfitta nel derby è un fatto doloroso, che può avere delle incidenze, per esempio il pareggio nel derby e la vittoria stasera significherebbero avere ottime possibilità di passare il turno, e ripeto, nella peggiore delle ipotesi, l'Inter vince a Torino, cosa da vedere, e se la Fiorentina vince a Genova contro la Samp, la Roma sarebbe a meno 3, con tutto uno scenario importante davanti. È più importante passare il turno in Champions per quel business plan. Sì, non è automatico, è freddo, ma sono... No, non è automatico, vai, senta. Cioè la vittoria di stasera, però, diciamo, è necessaria per poter progettare un passaggio di turno. Ma non sufficiente. Poi, ma necessaria, ma non sufficiente. Quindi, la beffa sarebbe terribile, vai, comunque. Però ecco, poi lì ci sono 20 milioni da spendere, tanto per essere molto chiari, no? Se passi il turno, quindi anche per eventualmente rinforzare la squadra a gennaio. Io credo che, diciamo, sono i due misteri del cervello, quello razionale, credo che non abbia dubbi. Poi è ovvio che... Tanto allora, mi è convinto, bisogna vincere questa sera e vincere anche al derby. La cosa più bella, che fa molto tutti i convocati, fa molto tiki-taka, è che ormai abbiamo questi intellettuali in piazza, un intellettuale, eccetera, impegnato in cose molto più serioso del calcio, che sta qui mercoledì mattina a controllare giustamente Iago Falca che gioca a titolare, Florenzi, e quindi avrà un atteggiamento. Ma perché, siamo in tema di cuore, al questo cuore non si comanda, ma me lo insegni tu, fino a qualche anno fa i direttori di giornale non sarebbero mai messi a discutere di loro. Ma chi te l'ha detto? Solo che non te l'avrebbero detto. Esatto. Non pubblicamente, esatto, e quindi è bellissimo, io sono felice di questo. Come? No, certo, certo, io penso a Paolo Mieli, non avrebbe discusso in caso. Beh, è venuto le Bortoli a Tiki-Taka la sera. Le Bortoli però c'è un cuore rosso-nero importante. Un cuore rosso-nero, ma anche bello grosso, con grande competenza. Sì, sì, sì. No, lui è molto competente, molto bravo. No, Paolo un po' se ne frega, credo. Un po' meno. Sì. Grazie un po' Giuseppe. Battaglia storica. Grazie a voi, un ciao, abbraccio. Direttore, ciao. Allora, io volevo farvi aprire un capitoletto, giusto per farci due risate, piccolo, da far sentire a Pardo, oltre che a Giovanni Capuano. Su quelle canaglie dei calciatori. Oggi ho letto questa di Benzema, che è stato fermato, è stato arrestato. Perché sospettato di una tentata estorsione ai danni del compagno nazionale Valbuena. Praticamente, in seguito ad intercettazioni telefoniche, farebbe parte di questa cricca che avrebbe chiesto a Valbuena, con delle telefonate anonime, di sganciare 150.000 euro, altrimenti avrebbero pubblicato dei video hot che vedevano il giocatore francese impegnato in cose molto private con la compagna, quindi neanche con... Te lo immagini Benzema con la patata in bocca? Non lo so, io per non farsi riconoscere da uno che gioca con lui in nazionale. Ma Capuano, che è successo a Capuano? Ha fatto due battute sulla patata, il secondo più serio del mondo. Impeccabile professionale, per fare battute sulla patata in bocca. No, dai. ma pare che abbia fatto, che Benzema abbia fatto l'accento svedese. Come Fantozzi, faccio l'accento svedese? Come Eriksson, se vuoi che non pubblichiamo video, dai, noi 150.000 euro non vediamo. Ma poi, in bocca, poi Pier, ti saluto insieme a Pasquale Bruno, ascoltalo. Sì. L'altra sera guardavo la Juve contro il Toro, col mio Toro, e vedere Bonucci protestare sempre con queste cazzo di mani in aria, no? Allora dicevo, mi piacerebbe avere, no, un rewind della mia vita, ritornare indietro ed essere presente nel calcio di oggi. Pasquale Bruno che gioca contro Bonucci, Juve Toro. Vedere Bonucci così tanto eccitato, euforico da protestare sempre, anche quando, no, con le ste mani in aria che sembra non so chi. Allora mi immagino Pasquale Bruno nel tunnel che gli dà un pugno in faccia a Bonucci, gli spacca il labbro, gli mettono 5 punti di sutura e così non parla per 5 mesi, perché è insopportabile il suo comportamento. Pardo, e viva la sportività! Siamo tutti fratelli! Siamo tutti fratelli! Però controlliamo Capuano, perché bisogna, adesso io vi lascio soli, però. Capuano. Ci mandiamo la registrazione. Ci lasci soli? Ci lasci soli. Provato, voglio dire, dalle 3:30 vi dovevo anche dalla Germania con la caricando l'app. Ciao Pierluigi. Ciao. Salutaci Serena. Allora, torniamo subito dopo il giornale radio. Matteo Gabriele, aspettateci un attimo. Grazie, buon appetito. Tutti convocati. Gira il mondo, gira, e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cosa è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Tutti convocati. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Giovanni Capuano, sai questi, chi sono questi che cantano, come si dice, a cappella? Sono... no, chi sono? Però cantano bene, mica male, assolutamente, mica male. Un video di qualche tempo fa sono i giocatori del Tottenham che in spogliatoio fanno questo. Chissà se c'è anche Dean, l'arbitro, quello che esulta per il gol del Tottenham. Però devo dire mica male. No, davvero. A proposito di spogliatoio, vi aspetto stasera su Gazzetta TV. Lì è lo spogliatoio. Matteo Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo fare una domanda di mercato. Sì. So che adesso tutti i tifosi del Milan mi biasimeranno, mi condanneranno. Mai quanto biasimano noi per aver mandato l'audio di Pasquale Bruno, scrivono delle cose orribili. Ma non no, effettivamente. Non accetto questa. Detesto. No, vabbè, al di là di detesto, non detesto, insomma, ha detto una chiara sciocchezza, insomma, è stato verbalmente violento, però l'unica cosa che non accetto è che qualcuno mi scriva, siccome l'ha detto contro un giocatore della Juve, è meglio riderci sopra. Se fosse stato un giocatore di un'altra squadra, più di cielo, non è vero. Questa è una... È violenza pure basta. È violenza pure basta, e questa che mi viene scritta è una sciocchezza. Dica. Io volevo chiedere cosa ne pensate se Ranocchi arrivasse al Milan. Secondo me sarebbe un ottimo acquisto. Sono d'accordo, ma penso anche che sarebbe un clamoroso autogol da parte dell'Inter, soprattutto se la base è lo scambio con Mauri. Io credo che la storia di Ranocchi all'Inter sia evidentemente finita. Mancini non lo vede, e Ranocchi non è un giocatore che si può accontentare di giocare come riserva delle riserve, e piuttosto gioca Medel e viene inventato come difensore centrale sul modello di quello che fa nel Cile. Però io credo che Ranocchi possa anche avere un mercato fuori dall'Italia. Sì, penso L'Inter negli anni scorsi ha resistito ad alcune avance da parte della Juventus perché faceva questo tipo di valutazione. Sinceramente mi sembrerebbe strano pensare a gennaio che l'Inter vada a rinforzare una diretta concorrente. Sarebbe sul Milan diretta concorrente potremmo aprire la classifica un dice questo. Dice solo la classifica. Io credo che almeno fino a primavera così sarà. Poi non lo so, vedremo come sarà messa la classifica. Cioè, così sarà la classifica? Così sarà il Milan così vicino alle prime? Nel senso che le grandi più o meno, soprattutto se l'obiettivo è quello del terzo posto, resteranno tutte ampiamente in corsa, almeno per un po'. Gabriele, buongiorno. Buongiorno. Niente, cari amici, volevo dirvi due grosse differenze che hanno dato ieri sera. La prima, vedendo la radiocronaca della Juventus fatta su Mediaset, e l'altra casualmente fatta dalla Svizzera. Come ha fatto a vederle tutte e due? Perché saltavo da una parte all'altra. Ah, faceva zapping selvaggio. Sì, ho capito. Certo. La competenza, l'essenzialità della Svizzera, e invece la banalità, la chiacchiera di questi qua. Questa è la prima differenza. Seconda differenza. Spiace che non ci sia più Pierre, che così rispondere. Però magari una cosa la possiamo dire, amico. Però sentiamo la seconda differenza. Seconda differenza invece sta nel gioco, passando attraverso le varie squadre. La grossa differenza, io sono juventino, vedere questo continuo passaggio indietro, questa elaborazione, questo fermare la palla e giocare, toccarsela, ripassarsela, e gli altri giocare tutto di prima, questa è un'altra grande differenza. Toccarsela, ripassarsela, mica tanto, perché la Juventus ha fatto il possesso palla più, mi diceva prima il professor Capuano, ha fatto il possesso palla, la percentuale di possesso palla più bassa della sua storia, di sempre, forse. Per il 30,3%, che in Europa, secondo chi rileva queste statistiche, è la percentuale più bassa dal 2003-2004, ma attenzione, perché dal 2003-2004 viene rilevata quella statistica, quindi in realtà una partita come quella della Juve è probabilmente irripetibile, ed è stata un unicum nella storia recente della Juventus. Sulle telecronache, che ci sia una differenza è evidente, ma è una differenza di linguaggi che, se lei segue la TV svizzera, avrà notato, cioè, in tutto il palinsesto. Cioè, gli svizzeri la televisione la fanno in quella maniera, può piacere o non piacere. In Italia c'è un linguaggio diverso, sì, soprattutto nelle TV pay è un modo diverso, è molto più vicino a quello spagnolo, a quello sudamericano. Certo. Io non ne farei, ecco, il tema è può piacere o non piacere, e questo è assolutamente opinabile. Però secondo me quello che disturba è il giudizio e la valutazione sulla competenza. Cioè, non è che chi va a fare una telecronaca di una partita di Champions in Italia perché ha quello stile lì è incompetente. E questo non perché Piero è un amico. No, non c'entra nulla, vale per lui, vale per Caressa, vale per tutti quelli che fanno questo mestiere. Dopodiché oggi sarebbe Italia. Il compleanno di Sandro Ciotti, andatevi a risentire. Anche lui aveva uno stile adeguato ai suoi tempi ed era il numero uno, forse è stato il numero uno di sempre. Però oggi voi siete sicuri che vi piacerebbe lo stile di Sandro Ciotti? Domanda che resta senza risposta, o meglio, se volete la date, 800240024. Ma intanto io saluto maestro Alberto Bucci. Ciao Alberto. Buon pomeriggio a voi tutti. Io volevo parlare di questo terremoto improvviso sulla panchina, improvviso, non so se improvviso per te, sulla panchina della nazionale italiana, via Pianigiani. Ecco che arriva il tuo allievo prediletto, Ettore Messina, che allenerà a distanza. Ma tu te l'aspettavi questo cambio di guida? Sì, me l'aspettavo, perché all'inizio degli europei, quando Petrucci disse che questa squadra era la più forte che c'erano, Pianigiani disse che è una squadra senza esperienza, che non aveva, e cominciò a difendersi dagli risultati che forse non c'erano. Purtroppo in questo mondo siamo preoccupati di cosa scrive la stampa, di cosa scrivono gli altri, siamo più preoccupati di quello che gli altri dicono di noi, sì, senza mai pensare a noi. Io, il giudizio degli altri non mi interessa, il giudizio me lo do da solo. Dagli altri accetto pareri e consigli, ma non giudizi, perché nessuno sa quello che io ho dentro, che è la mia vita e quello che sono. Perciò il giudizio è una cosa molto, molto privata. Perciò tutti possono darmi consigli, possono dare pareri e io li ascolto, non un giudizio. Quindi, e questa è la cosa prima, già che tu cominci a difenderti da un fatto che non è ancora accaduto. Sì. Questa nazionale sicuramente non ha ottenuto quello che tutti quanti speravamo. Certo. Poi possiamo discutere di tutto, la tecnica, che cosa, ma non l'ha ottenuto. Credo che finito gli europei c'era già un'aria molto difficile, si capiva già, doveva dire sì Messina nel caso che Pianigiani dicesse di no, perché qui sostituiamo Pianigiani con forse uno dei 5 migliori allenatori d'Europa ed è l'unico allenatore italiano che è in America e allena, fa l'assistente allenatore di Popovic, una delle squadre più blasonate del basket americano. Perciò non è che viene e dice, sai, viene Arlecchino e facciamo delle feste. No, è uno di grande livello e che sicuramente può dare una mano alla nazionale e dare sicura quello che alla nazionale ha bisogno, di sicurezza, di mentalità, di senso di appartenenza, cioè tutte quelle cose che servono per ottenere grandi risultati. Quindi dal punto di vista dei risultati, Simone Pianigiani alla guida nazionale ha fallito, possiamo dirlo? Sì, sicuramente in questi 3 anni non c'è stato mai un acuto. Costruiamo, ma in nazionale tu non vai a costruire una squadra, vai a gestire dei giocatori che giocano in altre squadre e che, se le hai prese da quella squadra, facevano bene perché giocavano in quella maniera. Un bravo allenatore è colui che riesce a cogliere dagli altri squadre i giocatori giusti della sua nazionale e non le snatura e le fa giocare come voglio, così come anche nel calcio. Sì, sì. Se Conte prende i giocatori e le vuole far giocare come gli pare lui, poi rischia di fargli fare brutta figura. Un allenatore nazionale deve andare a parlare con gli allenatori, cioè perché gioca bene con te, non so, Pirlo o Verratti, perché io gli faccio fare questo, e il nazionale gli faccio fare questo perché lui gioca bene. Ogni giocatore deve ricoprire con sicurezza quello che fa poi nel club, allora è più facile giocare nazionale. La bravura di un allenatore è quella di sapere mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Nelle condizioni migliori, che sono quello che fanno la loro squadra. Quelli che poi si inventano, che poi da me giocheranno così e io gli ho fatto cambiare ruolo, sono più bravo. Se vinci va bene, se no hai fatto una grande fesseria. Certo, certo, certo. Giusto. Certo. L'arrivo di Messina può portare sicuramente a cose importanti. Pianigiani, dopo Siena, ha avuto un'esperienza a Istanbul non fortunata, sì, è andato in nazionale, ora deve tornare in un club a rifarsi una sua forte carta di identità positiva di quello che è. Viene da grandi scudetti a Siena, in un momento però, voglio dire, giusto e normale ricominciare da capo, quindi bravo, Simone Pianigiani, perché è giusto così, questi sono i risultati. Non è un rischio il part time di Messina? Andiamo verso il preolimpico, che andrà preparato in maniera perfetta, perché è il bivio, sono le nostre sliding doors. Speriamo giocare in casa, prego. Dico delle cose che non siete d'accordo, ma tutti questi 4 mini raduni che fa la nazionale anche di calcio per poi fare i mondiali, voglio dire, non è che abbiano tanto valore. non credo che siano, poi si conoscono, ci parliamo e diventiamo amici, ma non è che in quattro giorni, cioè se voi che siete dei critici del calcio, quando inizia la stagione, dice è iniziata la stagione, la squadra si è allenata un mese, ci vorrà tre mesi perché portano il progetto allenatore, giusto? Sì, più o meno. E in quattro giorni cosa fa l'allenatore? No, però se i quattro giorni sono un po' più di quattro giorni e spesso, la nazionale del basket ha l'estate piena per preparare i suoi appuntamenti, evidentemente bravo. Vuol dire che c'è un lavoro che Messina non potrà fare, un po' perché ha il part time, un po' perché avrà la testa altrove, un po' perché i tempi sono diversi prima del preolimpico, no, e forse cambiare allenatore oggi è anche una scelta pericolosa. Io non credo, io credo che avrà quel mese e mezzo, due mesi per stare insieme alla squadra e per dare ai giocatori quella sicurezza e quella forza mentale per andare in campo e dire io non so chi sono gli altri, giochiamo contro delle maglie diverse e noi dobbiamo battere prima di tutto noi stessi, ma battere gli altri, perché se no diventiamo bravissimi con la Spagna e andiamo malissimi contro una squadra che non è la Spagna, e questo non mi sta bene. Certo. Okay? Certo, certo Alberto, certo. Un'ultima cosa che ti chiedo rapidamente, sì. A me sai cosa ha dato un po' fastidio, ma parlo a titolo personale, che il rapporto tra Pianigiani e la federazione non si interrompa, come sarebbe anche normale, fisiologico, ci si lascia, si fanno due conti e si chiude la storia, mentre il rapporto continuerà fino a scadenza del contratto 2016. Per quanto riguarda la supervisione, leggo il comunicato, supervisione tecnica di tutte le nazionali e gli indirizzi dei centri tecnici federali, portando così a compimento i progetti che stanno creando eccellenze e risultati. Queste formule fumose a me mettono un po' per le bocche. Ma com'è bella l'Italia, noi siamo meravigliosi per creare sempre delle stronzate totali. Voglio dire che Pianesani diventerebbe supervisore di Messina? Si inventa una formula per continuare a dargli lo stipendio, mi sembra questo. Allora dice guarda, abbiamo chiuso il giocattolo e adesso abbiamo un contratto da tenere banco, oppure segui i settori giovanili nazionali, ma di tutte le nazionali, di tutto quanto, mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra. È difficile, perché cosa fa? Da Messina dice avrei un'idea io da fare, e Messina lo guarda e si mette a ridere. Ma è chiaro che è una formula inventata, poi è una scatola vuota, no? È una scatola vuota dentro la quale ci sarà lo stipendio di Pianigiani fino a scadenza del contratto. C'è il bonifico. Dai. Noi siamo l'espressione della nostra nazione in tutte le cose. Perciò dobbiamo sempre inventarci qualche. Perché pensano che siamo tutti stupidi? Perché la realtà che mi fa incazzare, a me non me ne frega cosa scrivano, ma pensa che io ci credo. E sono un imbecille, perché se credo a quello, allora mi racconti Biancaneve e Sette Nani, Pinocchio, e ci credo. E ci credi, e credi anche che Lotito andava a 226 all'ora sull'autostrada perché aveva problemi con la scorta. Sì. Quindi, noi ci crediamo, noi crediamo a tutto, tutto. Alberto Bucci, grazie. Grazie, maestro. Ciao. In bocca al lupo, grazie buon lavoro. Anche a te, maestro. Ciao, Alberto Bucci. Ma comunque io ci credo alla storia di Lotito. Ma smettila. È veramente una spacconata, cioè come fa, è proprio una spacconata, una cosa sbruffonesca, come fa a dire, ah no, ma io, è vero, ho preso 70.000 euro di multa, 251 punti di patente, ma perché viaggio con la scorta, avevo premura, la scorta, ma dai, Claudio Treviso, spero non ho detto. Ciao, grazie di essere stato convocato. Grazie a lei. Dica. Ascoltate al volo una domanda che mi sto ponendo da diverso tempo. Dopo il Gran Premio dell'Australia era riferito a Valentino Rossi. Sì. Secondo voi, se mi sapete dare una risposta, se Marquez voleva veramente favorire Lorenzo, perché è andato a vincere l'ultimo giro? Allora facciamo così, le faccio rispondere da un altro maestro che si chiama Giorgio Terruzzi. Buongiorno, ciao Giorgio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Vuoi rispondere tu a Claudio da Treviso? Perché è molto furbo, è uno che fa le cose con una certa lucidità. Perché l'ha fatta bene? Perché l'ha fatta bene, l'ha fatta sporca, ma bene. Guarda, metterei su molti soldi sul fatto che Marquez vada a stravincere l'ultima corsa a Valencia. Per dire, visto che non c'entra niente. Il che significa che Valentino deve correre per il terzo posto? No, significa che se Marquez stravince la gara, noi ipotizziamo Lorenzo secondo. Beh, Valentino deve correre Lorenzo per il terzo. Lorenzo terzo se c'è Pedrosa. No, nel senso che si può cominciare a pensare di farla. No, certo, pensare di farla si può pensare, il problema è che partire ultimo, adesso vediamo il TAS, ma partire ultimo in una pistina così prendi tanto da quelli che sono davanti. E bisogna tener conto di una cosa, che Valentino, così come sta sulle balle, è una presenza molto ingombrante, fastidiosa per quella generazione di, cioè per chi vuole vincere, vuole stare al centro della scena, così non è graditissimo a tanti piloti. Perché porta via tutto da troppo tempo. Quindi tu a questa storia facile, che lo fanno passare, non ci credi che ci sia una parte del gruppo disposto, io non dico a farlo passare, ma diciamo a non ostacolarlo? Boh, qualcuno ci sarà, ma qualcun altro no, e ne ha davanti tanti. 23 davanti, credo, no? Quanti ne ha davanti? E con tutti i possibili rischi che ci sono in quello sport lì, da gruppone, da ultima corsa, da vita persa, cioè ci sono una serie di variabili molto rilevanti. Credo che la persona chiave su quest'ultima corsa sia Lorenzo, cioè sia la sua emotività che è molto vispa, più forse di quella di Valentino, e la sua lucidità, perché qui abbiamo a che fare con un ragazzo che all'apparenza ha perso un po' la direzione, ha perso un po' un equilibrio, no? Parlo questo, di Lorenzo. Cioè la mossa di andare al TAS, di cercare questo, di andare al TAS, non è stata lucidissima. È per questo che per questo ricorso, questa necessità di intervenire al TAS, questa richiesta di intervenire al TAS, che dici questo? Sì, cioè che è una terza, direi, mossa inopportuna, non dovuta. Cioè lui aveva tutto l'interesse. Io credo che se avesse vinto, in una stagione normale, se avesse vinto Lorenzo, nessuno avrebbe detto bah. Certo. Era una bellissima sfida, vince Lorenzo, pazienza. Ha comunque assistito a un qualcos'altro dal quale ha comunque avuto un vantaggio. Secondo me aveva tutta l'interesse a star zitto, a star tranquillo, quindi a non far gesti sul podio, a non reclamare dopo un normale legittimo reclamo che deve fare la Yamaha dopo una sanzione al suo pilota, a non entrare nel merito di un legittimo peraltro ricorso che può fare Valentino, senza avvisare la Yamaha, che è la sua squadra, una squadra che, già ricordarlo, ha già vinto entrambi i mondiali. Quindi Lorenzo ha perso la brocca, o è circondato da gente pazza, oppure ci sono delle cose, nel motorismo ne abbiamo viste tante volte, me lo sto domandando, c'è una strategia più articolata e più complessa che riguarda il futuro prossimo è un po' più remoto di Lorenzo, vedremo con quali esiti. Non sto dicendolo, sto ipotizzandolo, sì, perché sì. Cioè, qui non si capisce perché uno si metta. È la corsa al danno d'immagine, no? Cioè, Marquez, con tutto quello che si può dire, aveva un'immagine molto migliore fino a non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non c'è Lorenzo dubbio. Uguale, il tutto per questioni che non c'entrano, cioè Marquez non c'entra nella lotta al titolo mondiale tra Lorenzo e Valentino, Lorenzo non c'entra nella bagarre tra Marquez e Rossi, ma questo credo sia il senso di tutto, ed è per questo che ne parliamo da due settimane, e che il clima da Far West continua a circondare questo Gran Premio tra guerre di comunicati, conferenze stampa che non ci saranno e attesa per il ricorso al TAS. Giorgio, ti ringrazio, ti do appuntamento già alla prossima settimana per commentare gli eventi, così lo prendiamo pubblico. Grazie Giorgio. Grazie a voi, Giorgio Terruzzi. Beh, domenica ne parliamo tanto. Domenica quasi monografica, in realtà c'è anche il derby di Roma, che non è un dettaglio, e ci sono un altro paio di cosine di calcio, però insomma noi domenica alle 14 siamo tutti qui per Valentino contro il resto del mondo, Valentino contro la Spagna. Valentino contro la Spagna. Che noi speriamo sia anche Italia contro Spagna, sarà... io lo dico apertamente, spero che qualcuno abbia il coraggio delle sue azioni e si metta al fianco di Valentino Rossi. Non significa far niente di illegale, significa che esattamente come Valentino Rossi è stato messo in mezzo, ci deve essere un clima almeno di pari condizioni. Sarà certamente la corsa di motociclismo più vista della storia, immagino. Ma io diciamo che c'è una vigilia, adesso poi si è leggermente stemperato il clima, ma siamo a 3 giorni, ma c'è il clima di una finale di un mondiale, di una finale di un europeo. Siamo lì. Sì, quindi domenica che si fa? Quindi domenica noi parliamo di quello. Parliamo di quello dalle 17 in poi e vediamo come reagiscono gli ascoltatori. Senza considerare tutto sommato che Valentino Rossi, lo diciamo sottovoce con un po' di cinismo, si trova in una condizione tutto sommato psicologica ideale. Se vince, fa la più grande impresa della storia del motociclismo. Se perde, gli hanno fatto perdere. no? È così? No, secondo me no. Valentino Rossi se perde se la porta dietro fino alla tomba. Ah, questo, ma no, ma lo sto dicendo. Questa era la stagione giusta, si erano create le condizioni e onestamente lui, tu lo sai come la penso da quella domenica lì, abbiamo avuto anche una divergenza d'opinioni all'inizio, è vittima di qualcosa che nel mondo dello sport non può avere patria. Benissimo, domenica ne parliamo, intanto torniamo domani, torniamo domani alle 14 tutti convocati, Giorgio De Luca il nostro autore, Paolo Corleone in regia, Giovanni Melchione in redazione, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.